Il nostro sogno è avere un condominio di oggettine. Parenzo è il primo ad avere questa ambizione. Lo sappiamo che è così. Noi che non siamo religiosi lo diciamo apertamente. Lui, essendo religioso, non lo dice, ma lo pensa come noi. La zanzara. Tutto il resto è troia. Beh, amici miei. No, non ho detto gioia. Siamo al top, siamo al top, ragazzi. Servi di Roma fuori. E iniziamo anche stasera con la Padania, cari amici. Padania bella e libera, guardavano con quel signore, con quel deficiente di Parenzo, il quale era in treno. Io nemmeno lo sapevo, era in treno, stava tornando a Roma in treno. Ma incredibile. Ma lo so, eri alla stazione Termini, non lo so. Cioè, c'è un appuntamento, stai zitto che non si sente. C'è un appuntamento alle 18.30. Lui a Roma, riesce a non arrivare alle 18.30 nel punto in cui dovrebbe essere. Tanto non si sente, Davide, è inutile che parli, non si sente, è inutile. Allora, non si sente, non hai capito ancora che non si sente. Cioè, allora, ma non me ne frega niente, non me ne frega nulla di quello che dici, che tanto non si sente. Salirà alto nel cielo. Cioè, uno deve arrivare alle 18.30 precise, no? Normale, in ufficio, e a Roma non riesce ad arrivare. La libertà. Matteo Salvini ha deciso di tifare per l'Italia ai mondiali di calcio. Questa, amici miei della Zanzara, non la sottovalutate, popolo della radio, perché insomma è la svolta della Lega. Per la prima volta un segretario della Lega Nord, che prima se ne fotteva dell'Italia, eccetera. Ovviamente non è una decisione fondamentale per i destini del paese, però decidi, io ti farò per l'Italia. Padania bella e libera, guardava. Sali Padania, fai sentire quanto è forte la tua voce. Il calcio comincia e finisce con Milan. Detto questo, io sono un buon politico perché perdo i voti degli altri tifosi, però la nazionale non mi ha mai entusiasmato. Per cui non ti farai Italia, non ti farai Italia. Ma no, vabbè, però dai, meglio su. L'Italia degli di altri. Ti farò Italia, anche se il cuore me lo scalda il Milan. Tutto per la libertà. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri, pensa. Oh, andiamo a Padova, a casa di Parenzo. Senti cosa vuole fare il tuo nuovo sindaco, Bitonci. No, non è il mio sindaco. Non è il tuo sindaco. Parenzo, punti. Bitonci non è il mio sindaco. Ma certo, il mio sindaco è Marino, sono a Roma. Vabbè, ma non è comunque il tuo sindaco. Se fossi a Padova non diresti è il mio sindaco. Ma lo darebbe per forza. Vabbè. Perché sono mica in una dittatura, siamo. Le retate nei campi nomadi. Beh, questo mi fa scaldare il cuore, questa cosa. Le retate nei campi nomadi mi fa scaldare il cuore. Mi fa scaldare il cuore. Ci vorrebbe un sindaco così anche a Milano, anche a Roma. Le retate bellissimo, le retate nei campi nomadi. Servi di Roma fuori. E adesso noi abbiamo già cominciato a invertire questa tendenza fin da subito, quindi già due giorni le cose stanno già cambiando. Ieri c'è stata un'importante anche retata in un campo nomadi, gli accattoni in città già cominciano a diminuire, abbiamo già dato direttive alla polizia municipale perché ci siano controlli molto seri nelle abitazioni. Sali Padania, fai vedere quanto è bella la tua terra. Chiudere i centri sociali occupati. Beh, qui ragazzi, poi bisogna vedere se le cose si fanno, Bisogna vedere se le cose si fanno. Ma comunque, ottimo, ottimo, ottimo e abbondante. Libertà. È vero che lei vuole chiudere i centri sociali a Padova? Ah, ci sono dei centri sociali che hanno l'attività all'interno di fabbricati dove dovrebbe sorgere progetti di edilizia residenziale pubblica, e quindi io ho detto che porterò avanti questi progetti. Guardavamo. Vabbè, poi una cosa che ti farà arrabbiare, Davide, intanto abbiamo già un ospite collegato che è il protagonista della giornata politica, al centro di un caso incredibile, incredibile di defenestrazione, dico io di defenestrazione, perché questo signore è un senatore del Partito Democratico, nostro collega, giornalista, e praticamente, siccome è decisivo, ma minoritario nel Partito Democratico, è stato fatto fuori da una commissione. Però ti voglio far ascoltare ancora il segretario della Lega Salvini che dice che la scabbia è aumentata del 70% in Italia. Basta, caro. Basta con tutta sta Lega, basta, dai. Libertà. Avete fatto chiudere gli ospedali per gli immigrati. Ospedali di Monza e Brianza. Scabbia, aumento del 70% rispetto all'anno scorso. Il problema esiste, adesso andiamo avanti. Era dal signor Vespa, dal signor Vespa. A proposito di quello che è accaduto all'interno del Partito Democratico, vi faccio ascoltare Faraone, fedelissimo di Renzi. Faraone. Renzi innanzitutto ha detto una cosa molto semplice dalla Cina. Ha detto: il paese non può, non posso affidare, siccome ho preso il 41%, il paese non può essere affidato, non può essere appeso a Corradino Mineo, che è il protagonista della giornata. Molto brutto, direi, molto brutto. Brutta espressione, brutta, brutta proprio. Se diventano decisivi anche nell'impedire il fatto che quelle riforme si facciano, è chiaro che un gruppo può organizzarsi nel sostituire i suoi membri, i suoi componenti, senza che questa venga percepita come una prevaricazione. Guardava, guarda oltre i monti. Decisivi nell'impedire il cambiamento. Abbiamo con noi Corradino Mineo, buonasera. Buonasera a voi. Eccoci. Bene. Qui, allora, come risponde a quello che ha detto Renzi innanzitutto dalla Cina? Cioè, io ho preso il 41% e non, certo, il paese non può restare appeso a Mineo. Ma mi pare ridicolo, ma perché? Io non conto tanto, sto parodiando il grande Montanelli, ho fatto un post che ho appena messo in rete dal titolo Domine non sum dignos, non scherziamo, cioè il paese si è affidato a Renzi, Renzi deve governare, io volevo e voglio aiutarlo, non ostacolarlo. È vero, lui ha i voti, ha preso il 41%, sì. Io non ho mai posto un veto, mi presenti in una sola occasione in cui la palude si è aperta davanti a noi per colpa di Mineo o di Chiti o di Tocci, non ce n'è una. Quindi questa cosa è del tutto pretestuosa, la personalizzazione è pretestuosa, lì c'è qualcuno che si è risentito perché ha fatto degli errori nel nome di Renzi e ha chiesto la testa di chi, chi si è risentito. Non lo so, io le posso dire, quello che vi posso dire è che il 6 maggio la riforma era portata di mano, il governo si è irrigidito e invece di rappresentare il dibattito che c'era stato in Senato ha voluto il testo della Boschi così com'era e abbiamo perso il rapporto con le... Ma allora è la Boschi che si è irrigidita? Ma forse sì, o forse già. Ma la Boschi è inadeguata? Sicuramente non noi, ecco. Ma la Boschi secondo te, Corradino, è inadeguata a fare il ministro delle riforme o no? No, io penso sinceramente... No, ma dimmelo sinceramente. Allora, che sia molto intelligente, che sia una studiosa, che sia sicura di sé, e questo in politica è un fatto positivo, mi pare forse, se fossi stato Renzi, le avrei proposto un ministero di indirizzo, dove può dimostrare le sue doti, la sanità, la scuola, non una cosa delicatissima come i rapporti con il Parlamento, perché lì ho la sensazione che Maria Elena Boschi, lo dico con affetto ma da vecchio, si senta un po' Renzi. Cioè? Ora il problema è... Che vuol dire si sente Renzi? Pensi di padroneggiare una materia che è molto complessa, rapporti con le persone, col Parlamento, con i senatori, con i gruppi, con questo gioco difficile che si fa, che Renzi fa da grande, qual è con Berlusconi e gli altri. Ora, quello cioè, tu puoi anche considerarti, cara Maria Elena, più intelligente e più colta di Renzi. Ma purtroppo quelle cose nascono poche persone nella storia che le sanno far bene e allora bisogna farla fare a chi lo sa fare, oppure bisogna continuamente raccordare. Ma lei se ne intende di riforme è tutto dettato dall'esterno? Guarda, il problema di questa signora non è la competenza, perché è una donna che studia e diventa presto competente. E, diciamo, è stata catapultata in una situazione molto complessa dove forse non è in grado di gestire i rapporti umani, questo vuol dire. Ma forse il problema di Renzi, forse l'attenzione agli umori, alle cose che ti dicono i parlamentari sarebbe interessante. Per esempio nel caso nostro hanno personalizzato come se il problema fossi io, ma non è vero affatto. Chiti, Casson, Tocci sono persone che pensano. Sì, perché c'è stata l'autosospensione, ricordiamolo per chi ci ascolta, di 13, forse anche 14 senatori. Ma cosa porta, al di là di questi passaggi formali, la sospensione, l'autosospensione dal gruppo? Poi cioè, per esempio, tu potresti uscire, se questa vicenda non rientra, dopo queste parole anche di Renzi nei tuoi confronti, potresti uscire dal Partito Democratico? No, guarda, la questione è un'altra. Il Partito Democratico deve rispondere, perché per ora non sta rispondendo. Questa è la verità. Cioè, beh, risponde per nome del segretario del Presidente del Consiglio, dicendo che c'è una maggioranza che è stata eletta nel mio programma. Ma che problema c'è? Chi gliel'ha messa in questione la maggioranza? Cioè, risponde. Però tu diventi decisivo, in una commissione dove deve. Ma quando mai? Cioè, quando mai può portare, ad esempio, un voto in cui ho paralizzato qualcosa? Non è così. Cioè, il problema non è questo. Il problema è che Renzi sa benissimo che se non trova un'intesa più larga, e io sarei uno di quelli che potrebbe favorire questa intesa più larga, perché per esempio la posizione di Chiti è stata sottoscritta anche da 13 senatori. Però no, questo atteggiamento che cos'è? Voler imporre da parte di Renzi, cioè vuol dire qui comando io, cioè la tua estromissione, questa è... Ma non credo che sia una cosa direttamente decisa da Renzi. Io sto ai fatti. Il gruppo ha cercato di risolvere una difficoltà in cui evidentemente anche il capogruppo doveva aver raccontato a Renzi delle cose inesatte, perché francamente che il problema fosse Mineo è evidente che non è così. Che i senatori fossero tutti insomma riconducibili all'ovile con il meccanismo della minaccia e del... Sì. Poi in realtà non c'è manco un testo su cui parlare, non c'è manco un testo definito. Non vedo. Appunto, di che si tratta? Quindi ci sono. Aspetta un attimo, che c'è Parenzo che vuole intervenire. Parenzo, dimmi. No, sono dentro la radio, quindi forse si sente il ritorno della tua. No, va bene, vai. Questo, caro Corradino, forse bisogna togliere la dicitura democratico e mettere semplicemente partito. Via, cioè è partito, nel senso che io spero di no. Se n'è andato. Nel caso dovesse continuare questa ostra con io spero di no, cioè spero di no, perché se no vedi. No, sai perché spero di no? Perché in realtà la grandissima fiducia che gli italiani hanno dato, che abbiamo dato a Matteo Renzi, però non è una fiducia a vita. Quindi se cominciassero a fare questi errori, sì, ma la battuta che ha fatto oggi tutta Italia, anche i cinesi conoscono Mineo oggi, questo è straordinario secondo me. Perché, perché era in Cina. Era in Cina. Questo però voglio dire, io glielo dov'è Mineo? Che cos'è Mineo? Io glielo perdono questo, perché questo uomo è un uomo generoso, quando si vede in difficoltà offre il suo petto. E allora, siccome ha capito male questa cosa fastidiosa, perché sta pensando, e lo capisco. Le zanzare di casa. Siamo qui con Corradino Mineo, senatore del Partito Democratico, come l'ho definito, decisivo ma minoritario per quello che riguarda questa famosa riforma del Senato. Io ho un'idea molto precisa sulla riforma del Senato, caro Parenzo, che o si mantiene così com'è, magari eliminando elettivo, diminuendo il numero di senatori, come vuole fare per esempio anche Minzolini e altri del centrodestra, cioè che ne so, 200 senatori elettivi. Che hai detto? Il tuo amico Minzolini o altri. Oppure no, ma per citarne uno, oppure o si mantiene elettivo oppure si elimina del tutto. Queste vie di mezzo, cioè quella riforma Renzi ritoccata, cioè, a me mi sembrano semplicemente. È vero. Cioè, questa è la mia idea, la mia modesta idea. Cioè, anche quella di Mineo, vedo. Cioè, non mi pare così. Assolutamente. Se si elimina del tutto, bisognerà trovare delle altre forme di garanzia. Gli americani hanno la Corte Suprema eletta a vita, per esempio, che non è nella disponibilità del governo e neanche del Presidente della Repubblica. Allora, però voglio chiedere a Mineo una cosa, ma non si è comportato da un certo punto di vista Renzi in questo frangente peggio di Berlusconi? Cioè Berlusconi alla fine non è che faceva fuori sia Fini e altri, però dopo un lungo travaglio, qui appena uno alza la voce per un secondo viene giù eliminato, cioè quasi come Berlusconi o peggio, addirittura l'annunziata adesso parla di tentazioni autoritarie sull'Huffington Post. C'è questa cosa che si è dimostrato peggio di Berlusconi o no? No, io spero proprio di no. Ecco. Ma speri, che voglio dire, speri. Ma certo, in questo momento qualcuno per lui ha fatto un errore molto grave, un autogol spaventoso. Ecco, ma in questo frangente è peggio di Berlusconi. In questo frangente è l'autogol fatto, perché al di là di questa campagna personale su Mineo che fa ridere i polli, alla fine quello che resta è che la prima volta che qualcuno in modo costruttivo ti ha detto ma scusami, su questo punto non sono d'accordo, è successo un putiferio. Questa è una prova di fragilità, ecco. Di fragilità, però non sia, oggi, non ha, se l'avesse fatto Berlusconi, cosa avreste detto voi se l'avesse fatto Berlusconi? Ma Berlusconi faceva tante altre cose, non è che ve lo dovete dimenticare. Vi ricordate l'editto sulla RAI? Vi ricordate questo la è un editto a Mineo, ha fatto una specie di editto bulgaro a Mineo. Di Rubbi, quando praticamente i parlamentari hanno fatto un ricorso sostenendo... Vabbè, sono cose diverse, certo, però questo qua non è una sorta di editto bulgaro nei confronti di... Non c'è nulla di tutto questo. Lui pone un problema vero, che è quello che in un partito bisognerebbe condividere alcuni valori comuni. Io su questo sono d'accordo. Secondo me lo hanno informato male, perché non è venuta da noi nessuna non condivisione, capisci? Questo è il punto. Cioè qualcuno vuole scaricare la difficoltà del momento su alcuni di noi. Però è vero Corradino che nel programma di Renzi, con cui ha vinto le primarie eccetera eccetera, c'è la riforma del Senato nel modo in cui vuole lui, più o meno. Per cui uno dice, se uno si oppone essere decisivo. Non può essere decisivo se uno si oppone, no? Non può essere l'elemento decisivo. Mi dicono va che... bene, ma il problema è più o meno. Allora, noi abbiamo posto una questione a cui forse Matteo Renzi, cioè, qualcuno dice la Boschi ha detto Mineo ha tradito l'accordo con il gruppo. La Boschi oggi ha detto questa cosa. Cioè, l'accordo con il gruppo? Ma qual è l'accordo con il gruppo? Ma è un delirio. La Boschi l'ha detto. È così. Leggo dalle agenzie. La Boschi. L'accordo con il gruppo? Ma quale accordo con il gruppo? Non ho tradito mai nessun accordo con il gruppo. E io solo l'unico atto che c'è nelle cronache del Parlamento è che dopo che la maggioranza, per colpa sua, era andata sola, era stato approvato l'ordine del giorno Calderoli, Berlusconi, contento di questo, è tornato indietro e ha detto ai suoi di approvare il testo base della Boschi, semplicemente per alzare il prezzo della trattativa prossima Ventura. Sì. Io ho lasciato a verbale, ed ero sicuro che il testo sarebbe stato approvato perché conosco i numeri, no? Infatti è stato approvato largamente. Ho lasciato a verbale che non partecipavo al voto. Sì. Vabbè, non c'è stato, non c'è stato. Volevo segnalare che era stato un errore tornare indietro in modo rigido al testo Boschi. Vabbè, adesso al la di là ministra si è risentita, lo capisco, ma non può dire che io ho bloccato che ho votato. E ha detto anche che non si blocca una riforma per 10 senatori, cioè vi trattano come una minoranza, come il vecchio PD, diciamo, che non vuole andare avanti. La stessa cosa delle tangenti adesso di Venezia, no? Quello è il vecchio PD, quello che rubava. Adesso il vecchio PD è quello che non vuole fare. Però il problema è che noi tangenti le abbiamo prese. Facciano un'indagine patrimoniale. A proposito, ma Orsoni, perché Renzi non chiede su Tocci, su Casson? No, vabbè, vediamo certo che cosa ne esce. E ragazzi, quindi il vecchio e il nuovo, sai, gli italiani non sono stupidi. Tu hai un problema grande come quello delle tangenti e della questione morale e della corruzione, e te la prendi con delle persone per bene che ti dicono una cosa assolutamente corretta. Ma Orsoni si dovrebbe dimettere, secondo te? Dice che non si deve dimettere nonostante il patteggiamento. Orsoni, il sindaco di Venezia. Orsoni, il sindaco di Venezia. Ma non è più sindaco lui. No, come è sindaco? Come oggi è tornato in carica, è stato scarcerato perché ha patteggiato. O comunque e quindi è tornato in carica. È tornato in carica. Io al suo posto mi dimetterei. Sì. Lì tutti mi dicono che questo Orsoni è una persona per bene. Vabbè, quello che vuol dire. Quindi diciamo, è anche sospetto il fatto che i dirigenti del mio partito lo abbiano scaricato. Perché se io sono sicuro che è una persona per bene, dico, ma può essere che hanno sbagliato i giudici. Un'ultima cosa, Corradino. L'Annunziata scrive anche che tu sei stato eletto, sì, Lucia Annunziata scrive anche, tu sei stato eletto prendendo le tue parti, dice Mineo è stato eletto, anche se ovviamente con la lista bloccata, invece Renzi non l'ha eletto nessuno. E comunque questo col voto che ha avuto alle europee non lo direi mai. Però puoi dire che puoi rispondere a Renzi che il 41% di cui parla è anche tuo? O no? Cioè, non è che è di Renzi, è di Renzi. È di Renzi. Io però dico che il Parlamento è tutto illegittimo perché è stato eletto con una legge incostituzionale, però è anche tutto legittimo, non può essere legittimo e illegittimo a seconda di quello che va bene, che grazie, a presto, ciao. Con un proiettore nel Duomo di Messina hanno proiettato delle minchie finte. Siamo al top ragazzi. Caro David, a proposito di Paolo Ruffini, ieri ospite alla Zanzara, con un certo ritardo si prende atto altro che intervista a Repubblica, che col cavolo chi ha chiesto scusa a Sofia Loren, giustamente, giustamente. Ieri no, anzi ha detto, ha rivendicato la battuta, sì, certo. Non solo ha rivendicato la battuta, sì, ha detto anche che dire topa a Sofia Loren non è affatto una cosa offensiva. A Livorno no. Ma che c'entra Livorno? Ovunque, quando uno dice in un contesto scherzoso, in un contesto come quello della, dei premi, che lei è una topa meravigliosa, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una prova di grande spessore artistico, grande spessore artistico. Sofia Loren, sei una bella figa. Cara Sofia Loren, no, sei una bella topa, sei una bella figa. Questo ti posso dire se vuoi. Sull'erba vento spesso. Un complimento eccezionale, non mi pento. Ma perché, scusa, dovrei sentirmi? Ma non ci penso nemmeno. Ma per me è un complimento eccezionale. Cioè, ma dire, no, a una donna che è una topa meravigliosa, cioè, nella, cioè, per me è un complimento. Cioè, non credo che sia nemmeno, cioè, deprecabile. Se ti lasci a che piano si avvicina, avvicina, ti sembrerà una festa un poco salica, salica, ma nello zanzaro. Poi confessa, sono gerontofilo. Ma anch'io, io sono gerontofilo, guarda, io mi sono imbarzottito davvero, però Sofia Loren, poi oltretutto mi sono fatto anche prendere per il culo, cioè più di così, non so, mi sono prostrato, cioè non... E la Boschi, dato che parlavamo prima della Boschi? Beh, la Boschi, secondo Paolo Ruffini, fa le mezze capriole. Che vuol dire poi le mezze capriole? Cioè che a letto, secondo Ruffini, è un'ira di Dio. Questo vuole dire in realtà, no? Viva la topa! La topa è bella, la Boschi è discreta, sì, secondo me sì. Beh, ma tuffo, scusami, la Boschi subito. No, la Boschi secondo me ti fa delle belle capriole. Ti fa delle belle capriole. Sai cosa? Si dice a Livorno, là ci sta una mutanda per tutti i culi. Ma che vuol dire c'è una mutanda per tutti i culi? Scusa. Che si va bene un po' se da Boschi e da Riviera, vuol dire. Vabbè, TG3, dai. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli per TG3. E ascoltate cosa deve dire. Dopo la sostituzione di Mineo in commissione al Senato, Renzi va avanti, le riforme vanno fatte, nessuno ha diritto di veto, il PD non è un taxi. Nel PD è scontro, sale a 14 il numero dei senatori che si autosospendono e accusano, epurazione bulgara. Il ministro Boschi non ci ferma. Alta tensione fra i 5 Stelle sul sindaco Pizzarotti, ma anche sul voto online per le alleanze europee. Viaggio del TG3 nella Livorno Grillina. Revocati i domiciliari al sindaco di Venezia Orsoni, che patteggia una condanna a 4 mesi e annuncia: non mi dimetto, ho sempre operato per la città. Diventa pubblico l'audio dell'interrogatorio di Scaiola sulla casa al Colosseo, ho fatto un casino, ammette. Poi su Chiara Rizzo è una donna sola e tribolatissima. In Iraq prosegue l'avanzata dei miliziani jihadisti, dopo aver preso Fallujah, Ramadi e Mosul minacciano Baghdad. Obama, tutte le opzioni aperte. In Brasile prende il via il mondiale di calcio col debutto della squadra di casa, ma la festa è offuscata da violenti scontri a San Paolo, ferite 2 reporter della CNN. Io la banana non la mangio, sino cagar sarà un miraggio, si entro nel bagno questo giugno, ci rimango sino a maggio. Io la banana non la mangio, ti prego gettami un arancio. Te che alzasti a Coppa d'Europa Liga e desti un bacio in bocca al tuo collega, chissà se eri a favor dell'omosessão o contro il Benfica. Leviamoci ogni dubbio, amici miei. Che poi Parenzo, uno dovrebbe analizzare bene questa storia dei mondiali, no? Cioè, chi governa il calcio mondiale è un signore, una specie di padrino, lasciamo per il signor Blatter, una serie di padrino che sta lì a comandare tutto, nemmeno nei regimi. Beh, però padrino, nemmeno nei, insomma, padrino, detta così, sembra. Un padrino, un vero e proprio padrino. A mia banana mi fa male. Beh, io rimango a Rocco Siffredi, che ha detto che resterà in astinenza per tutto il periodo dei mondiali finché l'Italia è in corsa. Signor Rocco Siffredi. Ragazzi, io ho avuto migliaia di orgasmi. ma ce n'è uno di cui non mi dimenticherò mai. Quello ho avuto insieme a tutti voi. Vi ricordate quando abbiamo vinto il mondiale nel 2006? Bene, per quell'orgasmo collettivo io sono disposto adesso a rinunciare ai miei. Tutto il periodo in cui la nostra nazionale sarà in Brasile, io non farò più sesso. Sarà il mio voto di castità per la vittoria dell'Italia. Vabbè ragazzi, a parte che è una trovata pubblicitaria, ma più tardi, ma perché uno dovrebbe astenersi dal fare sesso per l'Italia ai mondiali? Rocco, dai, su, io non rinuncio. Io personalmente sì, non ma rinuncio. Tu non hai, credo, l'attività che ha il signor Rocco. Che ne sai Rocco? Tu? Che ne sai tu? Beh, che ne sai tu? Diventerebbe alla tua età, non penso, insomma. Che ne sai tu? Che ne sai? Come riesca ancora? Quelle acrobazie che fa il dottor Siffredi, lascia perdere, lascia perdere. Intanto ti riferisco una cosa: il signor Dario Fo, da quello che mi hanno riferito, ha deciso di non intervenire più, non solo la Zanzara, come ovvio che sia, vittima di scherzo zanzaresco. Beh, no, questo non è ovvio. No, però, come ovvio per quelli che la prendono in quel modo. È un uomo di spirito lui, anzi, è un attore. Era un uomo di spirito, era. Dario Fo ha deciso di non intervenire più, non solo, questo mi hanno riferito, non solo alla Zanzara, questo lo posso capire ovviamente quando si è vittima di scherzi, uno come lui dovrebbe abbracciarci fortissimo e dire siete dei geni, però in realtà non lo fa, se la prende. E dice non interviene più a nessun programma di Radio 24, capito? L'hanno chiamato per un programma, ah, la cosa mi ha fatto godere molto, devo dire la verità, mi dispiace per quelli per che l'hanno chiamato. Per punizioni, per tutti, anche sì, capito? Cioè doveva andare ospite anche a Focus dall'amico, dall'amico Taddia doveva andare, sì, così mi hanno riferito brava, di brava persona Taddia, mi pare, bravissima no? persona, no, lo dico perché bravissima persona, doveva andare là, dice no io non intervengo più ai programmi di Radio 24. Da Barisoni sì, però ma a Focus, dai, ma che ci va a fare a Focus secondo me? Beh, perché magari dai, su ragazzi, non intervengo più ai programmi di Radio 24. Questo è il satiro, questo è il re dello sberleffo. Ma si sarà incazzato forse per quella famosa imitaz, quella telefonatina del signor Casaleggio? La cosa terribile è che autolesionista, una nazione di autolesionisti che sanno benissimo che la cosa è sporca, che le cose non hanno che una soluzione, e però continuano a ingoiare, scusi il termine, ma la merda, è così, non c'entra. No, no, puoi dirlo, puoi dirlo, anche ad alta voce. La struttura autolesionistica di questo popolo, non c'è niente da fare, perché ormai basta, dico, ha votato per Berlusconi sapendo che era un figlio di c***o, ha rivoltato ancora e ha rivotato ancora dopo essere stato fregata con Berlusconi. Dubbio, amici miei, io sta simbologia la invertirei. Rocco da Catania, buonasera Rocco. Io sono un Rocco però che non farà astinenza durante i mondiali. Vabbè, mi pare anche abbastanza normale, no? Mi dispiace, quindi io telefono perché io sono un farmacista e volevo dire a Parenzo che non si incazzi, perché purtroppo io ho notato che da noi si fanno le famose preparazioni galeniche e negli ultimi mesi il preparato si chiama benzoato di benzile va a ruba. Abbiamo preparato 10 litri l'ultimo mese e il prodotto che si passa sulla pelle per combattere la scabbia. Cioè che sono aumentati i casi di scabbia a dismisura? Assolutamente sì, vengono quelli che si occupano dei centri di raccolta vengono a ordinare litri e litri di prodotto anche. Ma meno male che vengono, quelli vengono magari, Rocco, vengono lì perché portano i prodotti dentro i centri di raccolta degli immigrati. Ci mancherebbe altro. Ma poi gli immigrati, fa un viaggio come quello, certo. Ma gli immigrati non credo che restino per tanto tempo nei centri, vanno in giro, escono, quindi la scabbia c'è. Ha notato un aumento dei casi di scabbia anche tra le persone, non tra gli extracomunitari che arrivano? Arriva anche qualche caso di scabbia che prima non esisteva anche tra le persone. Beh, però Parenzo, questo è un dato di fatto, cioè questi qua portano la scabbia in Italia, appunto. Scusami, no, tu contesti l'uso politico di questo. Esattamente. Ho capito, ma se uno fa una battaglia è ovvio che uno fa, scusami, un Davide, se uno fa una battaglia contro i clandestini, contro l'immigrazione, ed è legittimo farla, una battaglia contro l'immigrazione clandestina, dice anche tra le conseguenze dell'immigrazione clandestina c'è anche quella che portano la scabbia, eccetera eccetera. È un dato di fatto. La portano sì o no? Io contesto le modalità con cui loro fanno, perché è politica, non è che stiamo parlando. Capito, ma cioè, è... per fortuna la Croce Rossa internazionale, probabilmente se ne dovrebbe occupare anche il ministro della salute, ma in modo costruttivo, in modo politico, non dicendo ammazziamoli, portano lo scambio. Nessuno dice ammazziamoli. Bombardate quei barconi. Bombardare i barconi all'origine, certo. La contesta... cosa vuol dire all'origine? Scusa, no, ma perché noi dobbiamo andare a prendere i barconi quando sono magari in acque internazionali e portarli in Italia? Perché lo stiamo facendo continuamente con questa dannatissima Mare Nostrum. Credo domani, dopodomani, il ritorno di Marcello Dell'Utri in Italia. L'avvocato di Marcello Dell'Utri, il signor Di Peri, dice addirittura che Dell'Utri è contento di rientrare. Beh, sono quasi più triste io, Parenzo, su questa cosa qua. Ti rendi conto? Sono quasi più triste io. Tu ti rendi conto? Io sono molto triste, devo dire la verità. Io volevo Marcello Dell'Utri latitante che fotte lo Stato e dice bravo. Dai, su. Corsa esterna in situazione mafiosa. Comunque sentiamo Di Peri, dai, avvocato. Io le posso dire che comunque ha sempre prestato e ha auspicato il suo rientro in Italia. Non le so dire perché è contento, ma evidentemente perché queste erano le sue iniziali intenzioni. Poi è stato bloccato lì, ha chiesto di rientrare in Italia, sono passati 2 mesi, speriamo che lo rientri in 1 settimana. È contento di far cessare questa situazione in cui era trattenuto in Libano contro la sua volontà. Ma adesso, trattenuto in Libano contro la sua volontà. C'era andato lui, diciamo, in quel paese. Sta esagerando l'avvocato Di Peri, cioè, diciamo, non è che conta la sua volontà. Andate in Libano per prendere un po' di tempo, per cercare una scappatoia, ma è legittimo che sia così. D'altra parte, i delinquenti, tra virgolette, cercano di scappare e le guardie cercano di beccarli. Ovviamente delinquenti secondo i processi, secondo la legge, eccetera. A proposito di gente che ha patteggiato, ecco, ovviamente il per caso altre Orsoni, questo è interessante. Esattamente per altre bisogna dire per altre cose, non si sta parlando di male. Appunto. Signor Orsoni, sindaco di Venezia. Allora, questo è molto semplice. Aspetta, qui, chiede di patteggiare, prende 4 mesi di carcere in sostanza e torna a fare il sindaco di Venezia. Era stato sospeso, torna tranquillamente a fare il sindaco di Venezia. Sì. Dice: ho incontrato più volte il signor Mazzacurati. Sì. Pensavo che sostenesse la mia campagna attraverso canali leciti. Ho sbagliato ad accettare la candidatura. Il PD mi aveva detto che servivano molti soldi. In sostanza attacca il partito. No, perché qua non puoi fare il garantista corrente. Io il garantista. Non puoi. Il PD dovrebbe chiedere oggi le dimissioni di Orsoni. La magistratura con questa accettando i 4 intanto mesi... il 78% degli elettori del Movimento 5 Stelle attraverso il referendum votano per l'alleanza con Farage. Bellissima, sì, ragazzi, questo ne avrei parlato infatti bellissima. Di questo. Allora mi sarei tenuto questa chicchina. Come quella su Bitonci che diremo tra un po', la nuova bitonciata. Ma questa la teniamo per dopo, la bitonciata, ogni giorno ce ne sarà una. Orsoni ha patteggiato 4 mesi per quella dazione di denaro. Allora, vuol dire che la magistratura ha accettato la versione di Orsoni. Sì. Cioè ha riconosciuto. Ma intanto 4 mesi ha preso. Ma quello per forza, perché quei soldi comunque sono andati. Ma io non ho capito una cosa. Vuoi sapere cosa sostengo io? Cosa sostieni? Io credo la magistratura, sostanzialmente quei soldi sono andati al PD. Questo è il punto. Ho capito, ma tu sei inconsapevole di quanti... Non vuole fare la fine di Greganti, hai capito? Sì, ma è inconsapevole... Non ha voluto fare i Greganti della d'accordo, situazione. Inconsapevole di questa quanti soldi cosa. Hai preso, basta, allora, via da sindaco di Venezia. È inconsapevole di quanti soldi caso, hai preso. In questo caso, e io lo difendo, non perché è del PD, lui ha detto... Senti, un altro avresti detto a calci nel culo. No, Orsoni, ma non perché il PD l'ha scaricato, non hai capito? Sto dicendo una cosa contro il PD invece, non hai capito ancora? Non hai capito? Vabbè. Sto difendendo la figura di Orsoni che secondo la magistratura ha detto la verità, ha ricostruito che fine facevano quei soldi e sostanzialmente dice è colpa del PD e il PD dice, ha sempre detto no, non è dei nostri lui, non è un nostro iscritto, questo è il punto. Vabbè, vero, come al solito non si capisce un cazzo di quello che hai detto. Alberto da Milano, la gente vedrai che ha capito, non ha capito nulla, non hai nulla. Capito. Alberto solo tu da Milano, chiedi la testa di Orsoni così a prescindere quando Francesco la magistratura gli ha riconosciuto la verità. Senti, che in un'altra situazione la sinistra avrebbe chiesto la fucilazione. la fucilazione. Orsoni è sindaco del Partito Democratico. Infatti, io mi pare aspetto che scaricato, ha patteggiato. Sì. Mi pare che il PD l'abbia scaricato. Non mi interessa. Ha patteggiato. Infatti, mi pare che il PD l'abbia scaricato. Ha patteggiato quattro mesi. Mi aspetto che Renzi, sempre così attento a queste cose. Sì, ma l'unico cose del PD che ha difeso Orsoni è il signor ma Fassino. Ma quelle sono dettagli. Detto secondo... Ho detto il PD. Ma non dettagli. Il partito lo ha scaricato dei Francesco fatti, da Perugia, no? Dai. Addirittura dicendo che non è iscritto. Non hanno chiesto le dimissioni. Mi piace. Vai, Francesco, vai. Ciao caro, io senti, sono incavolato nero sentendo i minori di turno come quelli che non vogliono fare niente in Italia quando uno non ha voglia di fare niente, che non si devono fare le cose, dicono subito mettono avanti la Costituzione. No, la Costituzione non l'ha detta, la Costituzione, cioè non l'ha detto. Comunque, guardi, il problema è uno solo. Io non so nemmeno ancora, la gente non sa nulla di questa riforma del Senato, come sarà o come non sarà. Non è possibile che uno che la pensa in maniera diversa venga criminalizzato dicendo che vuole bloccare addirittura l'Italia. Questo è una follia. Io non sono, cioè a me non mi interessa che sia Mineo, che sia un altro, eccetera. Mineo e altri del Partito Democratico vengono additati come sabotatori perché non vogliono una certa riforma del Senato. Questo mi sembra una cosa, una follia, cioè, o con me o contro di me, questa è la cosa. Non solo con me o contro di me, ma quelli che sono contro di me sono dei sabotatori del paese, quelli che vogliono la conservazione, quelli che vogliono, certo, che tutto resti così com'è. Questo è ridicolo. Questo è ridicolo. Ma io questi che odio, io carino, questa gente lo odio. Io sono un elettore di destra prestato alla sinistra. Ho votato. Ma che vuol dire un elettore di destra prestato alla sinistra? È un elettore, basta. Ah, perché ha votato Renzi, lei? Sì. Ha votato Renzi. Ho votato per Renzi e per Berlinguer e basta. Ma che c'entra Renzi e Berlinguer? Cioè, no, lui dice in passato. Ah, in passato, in passato. Vabbè. Va bene, insomma, grazie. Mi fanno gonfiare le palle questi che escono fuori e che ti dicono ma quando fanno le partiti dicono siamo d'accordo, ma questo non siamo d'accordo. Poi, che fa mettere... Ma Mineo ha sempre detto e altri del Partito Democratico hanno sempre detto di non essere d'accordo con questa riforma del Senato. Grazie. Danilo Varese. Salve Cruciani, io volevo criticarla per delle affermazioni, sì, che ha fatto lei ieri sera. Io ascolto volentieri tutti i commenti che lei fa, ad esempio sugli omosessuali, che accetto, quando intervista le puttanelle parlamentari lo accetto, però io sono animalista. Beh, e come me altri milioni di italiani, perché lei deve criticare il Movimento 5 Stelle quando interviene a difesa degli uccelli che subiscono delle angherie micidiali, oppure dei cani dentro i canili quando vengono soppressi senza alcun motivo? Non riesco a capirlo, non è giusto. Guardi, io non ho attaccato il Movimento 5 Stelle, ho detto semplicemente che il Parlamento che si occupa degli uccelli che danno l'avviso ai cacciatori per sparare ad altri uccelli, un Parlamento che per un'ora, un'ora e mezza, due ore si occupa di una direttiva europea sugli uccelli, mi pare francamente, lo ripeto con tutto il rispetto per gli animalisti, per le direttive europee, per gli uccelli, mi pare francamente ridicolo. Ma non erano i 5 Stelle, poteva non essere 5 Stelle. Un cazzo, però non sono l'unico animalista, siamo milioni di animalisti. Ma lei è animalista, fa bene essere animalista, mica ho detto che gli animalisti sono dei criminali. Devo parlare di questo, mi scusi, al bar o al cesso. Vabbè, se a lei piace un Parlamento che se a lei piace un Parlamento, se a lei piace un Parlamento che si occupa di uccelli, va bene. No, a me piace, ma mi sa che è molto più lei che si occupa di uccelli, ma a parte quello. No, veramente a me, se io mi occupo di uccelli, mi sa, io credo che anche lei se ne occupi di uccelli ogni tanto, no? No, io mi occupo di passere in particolare, però a parte questo, io credo che sia il Parlamento che debba legiferare, non a livello comunale. Legiferare, sempre legiferare. Il Parlamento deve legiferare, è la malattia dell'Italia, il Parlamento allora deve legiferare. Il Parlamento allora non deve legiferare, deve avere meno leggi, deve tagliare le leggi. Deve il Parlamento deve legiferare. Siamo nello stato dei pizzaioli e parliamo di mozzarella. Ma scusi, se quando io vado a correre e trovo gli archetti per gli uccelli, sì, chi è che deve difendere il diritto degli animali? Mia sorella. Lo deve difendere un parlamentare che dice che c'è un problema, discutiamone. Il problema degli uccelli che avvisano gli altri uccelli, certo. Com'è che si chiama? Ciao Danilo, Claudio Gorizia. Con un proiettore nel Duomo di Messina hanno proiettato delle minchie finte. Le famose minchie finte del Duomo di Messina. Claudio Gorizia. Pronto, buonasera. Vai. Sì, volevo inserirmi direttamente con Parenzo, se sì, posso, Cruciani, sì, a proposito della scabbia, no? Sì. Quell'intervento che ha fatto poco fa. La scabbia, sì. Ecco, sì, vabbè. Volevo dire così direttamente a Parenzo, se posso, perché dato che lui si inserisce sempre con discorsi di tacco e punto, nel senso che cerca sempre di moderare i discorsi verso, a proposito dell'accoglienza, verso un modo di essere... Andiamo al punto, via, al punto. Che andasse lui direttamente che facesse un po' di volontariato, mi segui? Un po' di volontariato lì quando escono sudaticci in quel modo, no? E di provare a vedere volontariato fa... dove? Volontariato lì, nei centri d'accoglienza, Cruciani. Cioè devi andare a fare volontariato. Sì, deve dimostrare a tutti noi, invece di tutti fare tanto il professore, di andare lì invece di chiacchierare, vai a aiutare questi che sbarcano. Bell'argomento, ecco, che facesse un po' di apprendistato. Mauro da Padova. Pronto? Sì, dimmi Mauro. Mauro da Verona, Mauro Podafini da Verona. No, c'è anche un Mauro da Padova e voglio Mauro da Padova, grazie. Ecco, allora, io ho votato Bitonci. Le dico però, sono sempre andato a votare le primarie per Renzi, perché io sono un elettore del PD. E perché hai votato Bitonci? Perché non ti piaceva Rossi? No, lei deve pensare che difficoltà è stata per me vedere il simbolo della Lega in Forza Italia. Sì. Io poi che ero stato in banco con Ghedini alle medie, però ho votato perché ha votato Bitonci e non, diciamo, la sua cultura politica, la sua tradizione, quello che ha sempre votato, perché? Perché c'è stato un fatto che mi ha fatto proprio... Per esempio? È successo a una signora qui vicino nel quartiere dove vivo io, è una signora di 74 anni, sì, che ha fatto? Che continua a lavorare... E lavora in Piazza della Frutta, Piazza delle Erbe, ha un banco. Vabbè, che ha fatto? Andiamo al sodo. Lei parte alle 3:30 di mattina con l'ape car. Capisce? Io la sento delle volte. Ma e quindi non capisco il legame con Bitonci di questa roba. Qui vicino c'è un campo nomadi. Ah, ho capito. Sono andati in casa. Che zona abita lei? Adesso facciamo Radio zona Padova. Zona Mortise. Ma allora che è successo? Non ho capito. Radio Padova. Hanno portato via la fede e tutto l'oro del marito era vedova. Ma è normale che questo qua a un certo punto... Se c'è un sindaco che dice che vuole smantellare i campi rom e i rom rubano, è normale che la gente si rivolga a questo piuttosto... Poi bisogna vedere ovviamente quello che succede. Difatti. Fermo lì, Mauro, 30 secondi. Avanti. Mar dei Caraibi, 5 giorni a bordo, 500 miglia a sud-est verso le calme acque dell'isola di Nevis. Solo tu conosci le tue ambizioni. Barclays ti aiuta a realizzarle, pianificando con precisione i tuoi investimenti insieme ai nostri consulenti, e ti rimborsa l'imposta di bollo sul deposito titoli fino a fine 2015 e fino a 3.000 euro. Visita ilmiotraguardo.it. Barclays, realizza le tue ambizioni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al 36/2014, soggetta a limitazioni. Condizioni, foglie e documenti informativi disponibili su ilmiotraguardo.it. La Zanzara. C'è sempre meno figa. Da voi in trasmissione. Beh, questo può darsi, però non è che noi adesso siamo qui a parte che siamo la radio, per cui è vero che c'è la webcam e la figa si potrebbe vedere, però ragazzi, di che parliamo? Vengono lontane le zanzare. Però a me piacerebbe fare radio sesso, sai, David? Già nei fatti ci siamo già. Sì, ci siamo già, cambia? Anche se non è 2 ore e mezzo. No, cambia? vorrei ogni tanto provare a fare un esperimento che è stato fatto negli Stati Uniti, radio sesso. Ci sono delle radio fantastiche negli Stati Uniti private in cui la gente si racconta tutto. Ma anche con un sessuologo, però. Ma non ci sei già tu, scusami. No, io che c'entro. Esperti, attori, ex attori, produttori, discorsi molto espliciti. Ma guarda che la gente va matta per queste cose qua. Alla fine dipende dall'ora in cui viene fatto. Ma sì, viene fatto. Sono radio tipo a pagamento, capito? In America. Comunque, vabbè. Abbiamo con noi, per capire a che punto siamo, a che punto siamo. Zagrebelsky lo escludo perché non è niente. Spinelli Barbara neanche. Voglio capire a che punto siamo con la sua promessa. Rodotà! Oh, bravissimo, hai chiamato Rodotà. Questo è molto meglio. A che punto Rodotà siamo con le riforme? Ma sai che palle con Rodotà? Rodotà. Rocco Siffredi è con noi. Buonasera. Ciao, ecco. Rocco. Buonasera. Come va? Direttamente dall'Ungheria. Molto bene. molto bene, caro. Famoso riformismo ungherese. Come va? Molto male. Che molto succede? Male. Cioè, te la stai passando male? Non si chiama. Lo so, ma l'hai deciso tu, l'hai deciso, Rocco, scusami. Io devo dire, guarda, Fioretto, questa è una storia bellissima, perché la sofferenza mia è quella loro, uguale, deve andare pari passo, però poi la soddisfazione è pari passo uguale. Cioè, quella loro se dici... Se l'Italia arriva in finale, parto, anche in semifinale, parto in Brasile, anche in semifinale. Ho capito, allora ripetiamo qual è il fioretto che ha fatto Rocco Siffredi. Il fioretto di Rocco Siffredi è questo: finché l'Italia è in quando è iniziato questo fioretto intanto, Rocco? Beh, già una decina di giorni. Da 10 giorni? Beh. Cioè tu da 10 giorni non fai niente? No, zero. Ma dai, non ci credo, dai. Beh, su, se te lo dice. Non c'è zero, da 10 giorni non sono c'è un organo. Sono nuovo. Mi esce sferma dagli occhi, però va bene. Che immagine agghiacciante. No, però scusami, Rocco. Adesso al di là dell'immagine molto chiara, insomma, che hai dato della situazione. Ma tu per quanti giorni al massimo hai fatto astinenza nella tua vita? Nella mia vita? Penso mai, perché mi masturbavo sempre, quindi credo mai. Vabbè, ho capito, cioè, ma questa... credo. Quando mi sono operato, quando mi sono rotto qualche osso, però voglio dire, di solito anche una volta con la circoncisione, tutto incerottato, ho trovato il modo di farmi fare un bel pompino, ma senza andare su e giù, solo con la lingua, quindi è stato fantastico. Sempre un linguaggio allusivo al 1950, allusivo, molto allusivo, un linguaggio molto per metafore, un linguaggio no, sublime quasi, no? Sempre un linguaggio. Che ti devo dire, il rapporto orale. Ma no, ma hai fatto benissimo, ma qui puoi parlare tranquillamente, lo sai bene, lo sanno tutti, ma dai, basta metafore, basta, non è che ha detto delle cose pazzesche, dai, su... Parenzo, di che ti scandalizzi? Non ho capito. No, Parenzo ogni tanto si scandalizza. Per l'orario. Si scandalizza. Per l'orario. Fa bene. Cioè, bisogna avere sempre dei limiti, bisogna autolimitarsi. Vabbè, io comunque non ci credo, caro Rocco. Io credo sono che la tua limitazione. Io, tanto, sì, ecco, sei il mio freno, è vero. Ecco, sì, io credo che tu, Rocco, sì, abbia anche... Ma abbia fatto un po' una trovata pubblicitaria, poi è intervenuta la Durex, eccetera, eccetera. Tu sei il re pure di queste cose. Con la Durex si collabora già da un bel po'. Appunto dico. Ti credo. No, cioè, secondo me tu non riesci a resistere. Non riesci a resistere, diciamo la verità, non riesci. Poi guarda, manda qualcuno a controllare. Ma che facciamo? Reality 24. E tua moglie che dice di questo stop? Mia moglie tira il fiato, tira un sospiro di sollievo, la signora è stranita, ha detto tu hai fatto 50 anni, ti sei rincoglionito, però sai, è una sorta di perché no, devo provare a cambiare, allora... è anche un modo per cambiare, è anche un modo per cercare di controllarmi e di dire ce la devo fare. Allora l'idea è, ce la faccio insieme all'Italia, se ce la faccio con loro è un aggancio per poter cambiare la vita, per potermi moderare, non lo so. Voglio cambiare un po'. Una grande forza di volontà. Sì, no, è anche una prova, dai, una prova. È come partire a fare una maratona di 50 chilometri, non l'ho mai fatta, voglio arrivare fino alla fine. Però scusami, Rocco, ma non ti viene la tentazione durante il giorno di, insomma, abbiamo capito, no? Cioè della. Aspetta, però non diciamo stronzate. Fioretto sì, ma le seghe me le sto facendo. Quindi, giusto, sempre le donne. Vabbè, sì, ho capito. Cioè, allora il fioretto così non è l'orgasmo in generale, il fioretto è un rapporto. Il rapporto, ma attenzione, l'orgasmo in generale, ti ho detto, mi esce dagli occhi, come faccio? No, ho capito, insomma, allora, che cosa è? Il fioretto è, decidiamo una volta per tutte, il fioretto è, finché l'Italia è in corsa per i campionati del mondo, io non trombo. Io non faccio sesso. Non fai sesso, però l'autoerotismo è ammesso, giusto? Ma diciamo che se non lo faccio in auto va via da solo di notte, quindi... Ma sono dettagli che, diciamo, adesso che li ho conosciuti, beh, mi cambia la giornata, effettivamente. È un po' paragonato, io veramente stai facendo come quelli che fanno il cammino di Compostela, sostanzialmente. Cioè, ma guarda che stessa... lo farebbe Rocco il cammino di Compostela, perché no? È no, una grande dico, prova. Come quelli che fanno appunto... Senti, ragazzi, io cerco di risettarmi, cerco di tornare normale. Senti Rocco, ma... quando tu sei abituato a farlo tutti i giorni. Certo. Poi purtroppo succede così. Beh, sì. Senti un po', ma qual è secondo te i calciatori italiani che sarebbero più adatti tra quelli convocati da Prandelli per una pronti per un anno in assoluto? Cassano, perché non c'è Totti, ma anche, cioè, Cassano e Totti sono una coppia. Però Cassano, no, dico tra quelli convocati adesso, Cassano sarebbe pronto per fare un film porno, secondo te? Cassano. Vabbè, solamente Cassano per... è il numero uno. Sì. È il numero uno, Perché dici, ma si è calmato? Ma si è calmato adesso, Totti non c'è, ma si è calmato Cassano da quando si è sposato, eccetera. No, tutte cazzate, ma come ti calmi? Quello è un animale che è in te, non è che lo togli così l'animale che è in te. Cioè, sarebbe diciamo che si è dato una compostezza, ma secondo me se vedrai che l'animale esce fuori prima o poi. Prima o poi riesce fuori, quando c'hai la scimmia, quando c'hai la scimmia addosso, voglia. C'hai sempre addosso, sì, ma sempre. Che scherzi. Comunque... Lui Cassano è veramente, veramente, secondo me, veramente portato. Ma Balotelli? Ma Balotelli lo vedo bene, ma lo vedo troppo preso da se stesso, ma è troppo conflittuale, non lo so, è troppo incazzato, si incazza stesso, devi essere un po' più relax. Credo cioè no, non è, non, non sarebbe, è, non sarebbe perfetto per un set porno, Balotelli. Potrebbe, no, ha un fisico pazzesco. Appunto. E mi sembra molto disinibito, mi sembra anche disinibito e non disdegna, ho visto che non disdegna essere ben attorniato. Però poi tra il dire e il fare, credo che le persone che riuscirebbero per davvero sono Cassano e Totti, l'ho sempre pensato, sono strasicuro. Poi sai, magari ci sono, Pirlo potrebbe sorprendere tutti, Buffon dici. Vabbè. Anche una volta con la circoncisione, tutto incerottato, ho trovato il modo di farmi fare un bel pompino, ma senza andare su e giù, solo con la lingua, quindi è stato fantastico. Tu sei come una piccola zanzara. Le confessioni di Rocco Siffredi, che ha scelto la castità per l'Italia ai mondiali. Caro Rocco, io devo dirti una cosa. Volevo capire da Rocco Siffredi una cosa. Che volevi capire? Lei, signor Siffredi, è per il monocameralismo o per il bicameralismo perfetto? Guarda, in cui che... le leggi fanno la navetta tra Camera e Senato? Cioè, stupiamo il pubblico, facciamo parlare il signor Siffredi non soltanto di priapismo, ma anche di questioni che riguardano la nostra vita quotidiana. La Zanzara è l'unica trasmissione, la sola trasmissione nel globo terracqueo. Sì, ma è banale per parlare Siffredi nel globo terracqueo. Solo la porno politica. Allora, lei... secondo me la politica e la pornografia è connessa, oggi sono la stessa cosa, quindi va bene. Allora, ma non c'è dubbio che la politica è molto legata al sesso, su questo non c'è dubbio, e alla pornografia. Però Parenzo dice: sulle riforme, sei interessato per esempio alla riforma del Senato, caro Rocco? Rocco? La riforma del Senato? Ma che roba? Tutte donne al Senato. Beh, sì, invece delle quote rosa al Senato, tutte donne al Senato. Questa è una proposta, di Rocco che potrebbe tutte avere anche. Tutte donne, secondo me, la vera forza dell'Italia, chi può cambiare l'Italia, sarebbe mandare tutti i maschietti a casa solo. Ma lo sai, lei, che lei non pensa ad esempio ma lo sai che in realtà ci sono molte donne, molti esponenti politici del sesso femminile che dicono la stessa cosa, dicono le donne in politica assicurano per esempio ma io sono di testa molto femminile, non credere. Più donne nei posti di potere vuol dire meno corruzione, questo è vero. Sì, per esempio zero corruzione, sono molto molto più sagge e soprattutto non giocano a fare fregarella. Però si sente male, perché non rimproveri anche Siffredi? Adesso riproviamo a chiamare. Adesso riproviamo a chiamare. La zanzara, schiaffeggiati le chiappe, la chiappa nera che fa. Balla la zanzara. Intanto mi ha scritto il signor Ruggero, Maurizio Ruggero mi ha scritto un messaggio. Che ti ha detto, signor Ruggero? Ruggero, che non è proprio una persona fondamentale nel dibattito politico, però il cattolico tradizionalista fondatore del Sacrum Imperium scrive: sono a Venezia, brutti schifosi Cruciani e Parenzo. Approvata in regione Veneto la legge formale, la legge? 30 voti su 60 con astenuti PD ferocemente contrario sull'indipendenza. Vabbè, perché lui è indipendentista. Giornata storica, premessa forse di restaurazione della Serenissima Repubblica e non solo. State attenti, Maurizio Ruggero. Ma perché lui è a favore della Serenissima Repubblica, capito? Sì, lui vuole il ritorno alla Serenissima, è una persona moderna. Allora, il consigliere di amministrazione della RAI, Rai, Antonio Verro, dice che la Loren merita rispetto. Mi scuso io per Ruffini. In risposta a quanto Ruffini ha detto ieri alla Zanzara, che riproponiamo. Ruffini che dice? Ruffini che dice? Nessuna scusa, non c'è bisogno. Cara Sofia Loren, non c'hai una bella sopa, sei una bella fica. Ma perché, scusa, dovrei sentirmi? Ma non ci penso nemmeno. Ma per me è un complimento eccezionale. Cioè, ma dire, no, a una donna che è una sopa meravigliosa, cioè, nella, cioè, per me è un complimento. Cioè, non credo che sia nemmeno, cioè, deprecabile. Io dico una cosa, no? Io dico una cosa. Qual è il problema? Cioè, qual è il problema? Che cosa ha fatto questo Ruffini? Quale crimine ha compiuto? Quale crimine ha compiuto secondo il consigliere di amministrazione della Rai? Crimine, ma ha detto una cosa nei confronti di Sofia Loren, una cosa molto semplice, una cosa molto semplice. Ha detto a Sofia Loren che è una topa meravigliosa. Siffredi, ce l'abbiamo ancora o no? È tornato Siffredi? No, non siamo ancora in grado. Non siamo in grado di collegarci con Rocco Siffredi dall'Ungheria. Benissimo. Ha detto semplicemente che la Loren è una topa meravigliosa. Basta, cioè, ha detto questo, che non mi sembra un'espressione grave, non mi sembra grave. Vincenzo, Milano. Buonasera Cruciani, siete due erotomani stasera, vedo che con Siffredi io stasera, ieri sera con i trapiantati di pena, insomma, andate benissimo. Ieri sera con? Con quello che si era operato, insomma, fra transgender e Rocco Siffredi si è preso per gli erotomani, complimenti. Erotomani, sì. Sì. Qual è il problema? Si scandalizza lei, Vincenzo? Assolutamente no, assolutamente allora. No. Però no, assolutamente no. Però meglio forse ascoltare Rocco Siffredi che quella specie di hit di ieri sera, diciamo così. Ma perché? Non ho capito. Cosa, che male le ha fatto quella persona là che si è operata? Non ho capito. No, niente, insomma, mi sembrava Vanna Marchi quando ho messo sulla radio. Dico, cazzo, Vanna Marchi questa? Invece era una transgender, vabbè. Ma non è una transgender che è diventata donna a un certo punto. Cioè, una che aveva l'organo sessuale maschile, il pene, se l'è tagliato, se l'è operato, e dopo è diventata donna. Le fa schifo? Le fa schifo? Le fa schifo? Come argomento, vabbè. Cosa, guarda, che, guardi che era su tutte le pagine dei giornali perché volevano mantenere il matrimonio. Sì, volevano mantenere il matrimonio. È un caso di scuola. Si capisce perché l'Italia va puttane allora. Ma capito, vabbè, non sarà una cosa. Io avevo chiamato per un po' per insultare amichevolmente Parenzo, no? Che ieri si scandalizza di zingari di qua. Ma invece di andare a vivere a Roma, perché non va a vivere in via Triboniano, vicino all'ex campo dei Conosco Zingari? Benissimo via Triboniano. Infatti, l'ho sempre vista lì ai campi dei Zingari. Ci sono stato un sacco di volte via Triboniano a raccontarla quando lavoravo a Telelombardia. Perché c'entra? Perché lavoro a Roma, cosa c'entra perché sei andato a Roma? Ma lei, io non ho capito, difende gli Zingari, ma lei ha presente gli Zingari? No, ma io non è che difendo gli Zingari, a me fa arrabbiare, prende gli Zingari come male assoluto del tutto quello che accade nel nostro paese. Se non fanno quello che i genitori, secondo lei, ma che infatti sono a difendere? Ma ci mancherebbe altro. Padre di tuoi figli, non si vergogna? Ma chi è che difende sta roba? Poi? Furbo, no, Vincenzo, no, come chi è questo? Furbo, come si chiama furbo. Questo qua? Vincenzo, mi chiamo. Ma chi, chiaro Vincenzo, no, ho scordato il nome, le chiedo scusa davvero, no, non lo sapevo. Caro Vincenzo, che secondo lei posso difendere i rom che picchiano i figli e li mandano a mendicare? Posso difendere questa roba? Dico semplicemente che quella è un'illegalità che abbiamo sotto gli occhi e quindi dipende dalle amministrazioni comunali, dipende, e spesso vengono utilizzate. Voglio vedere adesso io voglio vedere Bitonci in Veneto, neo sindaco di Padova. Allora, come risolverà il problema con i rom padovani? Perché ci sono alcuni rom che sono italiani. Ma dipende, se rubano sono sempre ladri. Appunto, appunto. Cosa c'entra? Se questi rubano, guarda che sono 40 anni che abbiamo problemi di rom. Io sono andato in periferia a Milano e noi quando eravamo piccoli avevamo paura dei rom. Mia madre mi tirava per mano perché aveva paura. Sì, ma è una responsabilità delle amministrazioni di tutti i colori, questa roba qua. Non è che la questione. Ma se le tengono aperti, scusatevi, però ci sarà una logica, no? Allora, gli fai le case nei comuni, ma non difendo nulla, usa l'intelligenza, però. Allora, i comuni fanno le. Ma Vincenzo, si fermi un attimo e tiri un sospiro. Allora, spiegatemi cosa bisogna fare. Le amministrazioni che fanno le casette per i rom, no, hanno fatto le casette per i rom, non va bene. Gli danno l'allaccio, acqua, luce, gas, cercano di mettere a norma i campi rom, no, non va bene. Che devono fare? Devono fare le retate, devono cacciarli via. Dove li devono cacciare? No, dove uno, devono dove, uno, ti dico io e poi chiudiamo questa cosa qui. Ti dico io qual è la storia. Non è che la gente normale riceve le case a prezzi di favore, eccetera. Infatti molti nella vita non è che fai il rom, non è che fai il nomade, cioè, ci sono dei lavori, fai dei lavori, sei regolarizzato, infatti, o meno, fai dei lavori, ti affitti la casa a prezzi di mercato, a prezzi di mercato, a prezzi di mercato, affitti la casa come tutti gli altri. E poi ai barboni cosa gli fai, ad esempio? Ma che ai barboni, brutto vedere i barboni nelle stazioni, vero? Brutto, brutto. L'hanno con me, non sono mica una mosca zenze, una povera zanzara sempre fedele alla sua natura, creme svariati, spray più citronella per te. Siamo di nuovo con Rocco, linea ristabilita, per modo di dire ovviamente, ci sei Rocco? Si sente la mazza. Bene, Carlo, provincia di Cagliari. Allora, sì, solo in dire, dunque io ho una teoria su questa faccenda qua dell'astensione di Rocco. Rocco sta facendo il magnifico, ma in effetti le partite sono di notte. Lui si guarda la partita e quindi non può fare sesso, perché notoriamente i maschietti una cosa alla volta possono fare. Se guardano il giornale, sfogliano il giornale, non possono guardare la televisione e viceversa. Lui non, sta mi sembra, non mi sembra che Rocco abbia problemi su quando fare sesso, ce lo può fare anche di giorno tranquillamente. No, ma non è quello, il problema era spiegare perché si asteneva durante le partite dell'Italia di notte, ecco, questo era la mia... Ma no, guardi, è una scelta così sua, come una specie di fioretto che ha fatto per la nazionale, eccetera, eccetera. Farage decisa l'alleanza, il 78% degli elettori dei 5 Stelle su web, insomma di gente che è andata a votare lì su web, pensa che follia decidere un'alleanza sul web. Parenzo, si decide un'alleanza sul web, a me lo dici, lo so, dillo, lo dica lei Grillo, lo dica lei Grillo, lo dica lei. Ecco, è la zanzara ancora? Sì, è la zanzara. Ancora aperta, questa roba non serve a niente. Ma come aperta? Certo che è aperta. Adesso vuole fare chiudere la zanzara, non ho capito. Ma è evidente, ma se non serve nella rete deve andare. No, nella rete. Già siamo nella il rete. Il voto della ADC, ma chi siamo? Noi siamo 5 Stelle ovunque, nella rete, anche adesso. Ti puoi fare una zanzara ovunque, dal Brasile, dal Canada, dall'Uruguay, dalla Papuasia. Ti metti lì con un'antenna da solo. No, ma qual è quella storia degli spostamenti? Squinzi. Quella storia degli spostamenti. Ma lo abbiamo fatto ovunque. In Svezia funziona così. Cioè come? C'è una piccola azienda che tutti sposti dalla Svezia all'Olanda con una mail. Non va con l'ologramma. Con l'ologramma, cazzo. Ma è ovunque. Ma non è la teleconferenza, quella vecchia, dove ti vedi? No. Vai dentro l'iPad. Hai un iPad piccolo, ci entri dentro con le molecole e automaticamente vai al 4%, al 5,4%. Comunque, qui avete deciso. Ma cliccando semplicemente Enter. Beh, insomma, adesso. Funziona così. Avete deciso. Arrivi in Olanda. Avete deciso di allearvi con Farage. La rete, non la rete. Ma non è la rete, sì. La gente ha votata lì su internet, ha cliccato una cosa, c'era scritto Farage e hai votato Farage. C'era Farage 1. Quali sono le opzioni? Democraticamente hanno deciso Farage. Ma è la stessa cosa. Farage. È la stessa cosa. Per era. Te è uguale. Certo, è così che si decide in democrazia. Ma no, si ma come decide in democrazia? Ma sei cretino? Da te? Ma che democrazia vecchia la tua? In cui c'era Farage, Le Pen? Oppure cosa c'era? Verdi? No, i verdi li abbiamo tolti. Perché devi mettere i verdi? Sono inutili. Fa schifo il colore, è inutile. Abbiamo dato la possibilità di decidere alla gente. Farage, la gente ha votato, è uscito Farage e va benissimo. Pure cucinare, che ci resto a fare insieme. Si sente? Rocco, si sente o no? Sì. Oh, grandissimo. l'uomo della castità per i mondiali, il migliore porno attore della nazionale, resta Cassano, secondo lui. Balotelli così così, non lo vedi bene, diciamo. No, non lo so. Però non ti ispira, dai, non ti ispira. Forse non ai livelli di Cassano. Non ai livelli di Cassano. Mentre l'altro che potrebbe essere la sorpresa è Pirlo, con questa sua faccia. Buffon, dici? Anche Buffon, forse più Buffon che Pirlo, sai, specialmente adesso che è libero. No, beh, adesso libero, non pare molto libero in realtà, signor Buffon. Cioè, non so se lo sai, ma non sembra molto libero in realtà. Si è subito riaccasato. Vuol dire che non può stare senza, è peggio di me. Quindi. Comunque, ma c'è comunque la faccia da bravo ragazzo, pure Buffon, no? Sì. No, lui mi sembra uno che non disdegna per niente. No, niente. Senti, ma tu la conosci la signora Nappi, la pornoattrice Nappi? L'ho lanciata io, ci mancherebbe. Però il primo con cui ha fatto il provino. Sei stato la prima ad averla, come dire, provata, sei stato tu. Adesso, sì. Però devo dire la verità, adesso è scatenata contro la Lega Nord la signora Nappi, no? Sì, hai letto. Ce l'ha un po' con tutti lei. Lei vorrebbe liberalizzare, vorrebbe che gli uomini fanno sesso con gli uomini, con le donne, donne con le donne. È un po' troppo moderna per i miei gusti. Addirittura, diciamo. Troppo moderna, troppo sì. Moderna. Perché tu non sei d'accordo, per esempio, sul matrimonio omosessuale, queste cose qua? No, io sono d'accordo su tutto ciò che renda felici. Ah, ecco. Però che per forza uno deve andare con un uomo e no, per forza no. Deve essere mio. No, lei dice che dovrebbe essere tutto così. Beh, sì, ci abbiamo parlato tante volte insieme. Sì. Ma perché ce l'ha tanto con la Lega? Perché ce l'ha tanto con la Lega, signora Nappi? Perché loro dicono che ce l'hanno duro, però in verità probabilmente non è così. No, ma ce l'ha perché lei è di Napoli, contro la Lega, queste robe qua, perché sono contro gli immigrati. Lì magari non lo so, io non lo so questo, io so solo che lei combatte molto da sola, poi ti dico la verità. Chapeau per Valentina, perché da sola, donna in Italia, donna pornostar, quindi puoi immaginare, parte a meno 50. Beh, sì, certo. Senti, Parenzo, devo dirti una cosa molto importante. Oggi la Lega ha proposto, Salvini, una roba che interessante, che è la flat tax, no? Cioè pagare tutti, pagare meno per pagare tutti. Cioè, beh, non è stato il primo a proporlo. Beh, no, però lui ha detto si sarebbe proprio. Grande Salvini, perché questo sistema è il sistema che funziona di più, perché quando tu una persona la tartassi, è normale che cerca di sopravvivere, tanti locali, tante attività purtroppo. Ma tu voteresti per la Lega? Se ha dei buoni principi, tipo questo qua, sì. Se l'altro principio è quello di mandare a casa tutti, abbasso gli immigrati, abbasso quell'altro, abbasso quest'altro, no, perché anche noi siamo stati immigrati all'epoca, bisogna dire, signor Salvini. Quindi c'era democratico, Siffredi, vedi? Io sono una persona che dico, fortuna Siffredi che è nato con l'uccello di 23 centimetri e con la voglia di fare il porno star. Vabbè, però questo è un elemento in più. Sì, però, no, voglio dire, però se nasci sfigato, in quei paesi dove devi metterti in quei barconi e ti ritrovi lì, poi il signor Salvini avrebbe un altro modo di pensare, capito? La metafora ci sta, certo. Io sono per aiutare un po' tutti. Senti, ma tu perché squadra fai il tifo in Italia? Io per l'Italia, solo l'Italia. Ortona Calcio Italia. E io ho una curiosità ancora da chiederti, ma tu, Rocco Siffredi all'anno quanto guadagna? Ma diciamo quando guadagnava abbastanza. No, adesso quanto guadagni? 2, 300, 400, mezzo milione, un milione di euro? No, un pelino meno di un milione, sì. Poco meno di un milione, quasi un milione di euro l'anno. Ma hai guadagnato molto di più prima, cioè sei un uomo ricco. Molto di più, non mi posso lamentare, devo dire che sono stato molto fortunato a fare. Mi dicono tanti, ma tutto questo solo col tuo uccello. Quanto hai accumulato nei soldi? No, dai, quando ho accumulato non lo so, però ho investito un po' a destra e a sinistra e mi sono divertito. A presto, ciao! Bella è la famiglia che ho, la famiglia, questo è il grande valore. Lo sappiamo. Ciao, a presto, ciao. Saluti. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è pure lo spray, a di zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno. Allora, Antonio da Bergamo, Antonio. Vai. Signor Cruciani, buonasera. Voi avete parlato poco fa degli animalisti, così, ne parlate come se fossero degli esseri umani. Ma che cazzo c'entrano gli animalisti con gli esseri umani? Beh, delle non esageriamo. Cioè, in che senso? Scusa. No, no. Ma non dico, esageriamo. No, non, è, non sono degli insulti. La teoria di Darwin, di quella dell'evoluzionismo, di l'uomo discende dalla scimmia, a parte il fatto che è una cazzata perché l'uomo discende da mille altri animali, mica solo dalla scimmia. Darwin non ha avuto il coraggio di dire tutta la verità. Doveva dire che l'uomo discende dalla scimmia, la donna non è mai discesa, è rimasta sempre sui rami degli alberi. Ma comunque io sono d'accordo con lei, cioè, non su aspetto, però sempre scimmia è rimasta. E che come sei d'accordo questa teoria? No, cioè, aspetta, che sia... No, non sono d'accordo con Antonio in toto. Ovviamente sto dicendo che in toto, vabbè. Si dà troppa importanza sulle donne. Penso, ma che dice? Hai sentito cosa ha detto? No, sugli animali, ero rimasto agli animali. Che c'entrano le donne? Scusi, Antonio, mi spiega. No, volevo chiudere, cioè lì, poi ha dimenticato di parlare dei corsi e dei ricorsi storici. Capito? No, ma sulle donne, ma sulle che donne, ha detto prima? Le donne, doveva dire Darwin, ma non ha avuto il coraggio di dirlo, che le donne non sono mai discese dagli alberi, sono rimaste sempre scimmie. In che senso, scusi? In senso, diciamo, psicologico, perché materialmente sono diventate donne più o meno, no? Si vanno a scopare sia dagli uomini che dagli... Ma non ho capito questa cosa, Antonio, cioè, perché sono rimasti dove? Cioè, sono rimaste dove le donne? Non ho capito. Sui rami degli alberi sono rimaste scimmie, in pratica sono rimaste scimmie. Matto, dai, è matto, cosa vuoi dirgli? Ma perché sono rimaste scimmie? Perché sono rimaste come carattere, sempre come prima, sempre scimmie sono, hanno modificato il loro aspetto, sembrano donne che a noi piacciono alcune volte, no? Sì, ma sì, il loro carattere è sempre quello della scimmia, in effetti. Poi ha dimenticato una cosa più importante ancora, che nella storia, in questa teoria dell'evoluzione, ci sono corsi e ricorsi storici, cioè noi discendiamo dagli animali, ma poi torneremo animali probabilmente. E dunque? Gli animalisti hanno precorso i corsi e ricorsi storici, sono già animali, solo che apparentemente sembrano esseri umani, ma attualmente gli animalisti per esempio lasciano i cani senza guinzaglio in giro per le città, perché ritengono di fare una cosa saggia. Se io protesto mi dicono e tu ti piacerebbe andare con il guinzaglio a collo? Scusi, di cosa si occupa lei nei momenti in cui è lucido, rari quindi, nella vita, di cosa si occupa? Molto lucido. Ma questo è un po' da dimostrare. Sì, è sicurissimo. Ma di che si occupa lei? Signor Cruciani o Parenza? Parenzo, caro Parenzo. Ah, Parenza? No, non parlo con Parenza, parlo con le donne, dai, che parli con me, non ti permettere. No, per carità. Vabbè, questo è impazzito. Valerio da Firenze, Valerio, buonasera. Buonasera, allora, siete due facce di merda, ovviamente, perché io non sono del Movimento 5 Stelle, ma prendere per il culo oggi il Movimento 5 Stelle mi sembra da facce di merda. Chi è che prende per il culo il Movimento 5 Stelle? Quando c'è un'epurazione nel PD... Guardi che siamo stati mezz'ora a parlare con Mineo di questa roba dell'epurazione, ma di che stiamo... Ma siccome Parenzo può fare il furbino, è una grande faccia di merda, ma non volevo parlare ma di... Chi è una faccia di merda? Chi tutto bene a casa? Come, scusa? No, dico tutto bene a casa, sì. Sì, benissimo, molto bene. Allora, volevo parlare degli uccelli famosi, per cui siccome... Il Cruciani dice non è una priorità, il Cruciani è una capra istituzionale, perché in Parlamento si riuniscono per stabilire l'ordine del giorno insieme al Presidente, Vicepresidente, eccetera, eccetera, e stabiliscono cosa fare, è il Parlamento che decide quali sono le priorità, non il Cruciani. Ma questo non c'è dubbio, ma su questo non c'è dubbio. Qual è la priorità delle priorità? E qual è? È quella di rispettare le regole, siccome qui in Italia sono sempre meno quelli rispettati alle regole, siamo nella merda, ecco perché il Cruciani è una capra delle capre, hai capito? No, scusi Valerio, adesso al di là di capra delle capre, ma il problema fondamentale è che se a lei piace un Parlamento che si occupa di uccelli, vada pure, tranquillo. Non si tratta di prendere in considerazione la priorità di un argomento. E che cosa? Se il Parlamento ha deciso perché deve rispondere a una direttiva, il problema è che si apre un dibattito. Il Parlamento decide, non il Cruciani. Ma quello non c'è dubbio. Si deve discutere, lo capisci sì o no? Il problema è che si apre un dibattito in Italia in cui intervengono tutti e dicono la loro. Il Parlamento si sa già come funziona, ci sono delle regole da una vita, ci sono scritte. Ma lei sta dicendo delle ovvietà. delle ovvietà. Ovvietà. Mai una capra come te certe ovvietà ancora non l'ha capita. Allora purtroppo una capra al quadrato. Sono capra al cubo, perché al quadrato troppo poco, al cubo facciamo, no? Bene, facciamo al cubo. Io sono capra al cubo, non c'è dubbio. Lei ho impressione che sia peggio di me però. Sabrina da Milano. Ciao, sono Sabrina e sono un medico, faccio il rianimatore in un ospedale di media grandezza. Ciao, e sulla faccenda della, degli extracomunitari che portano malattia, ma non c'è nessuna evidenza, né anche... Alcuni suoi colleghi chiamano e dicono che in realtà c'è un problema, eh? Non so dove lavora, che in realtà lavori, ma io ho lavorato ovunque, anche sul territorio, e recentemente anche l'Ordine dei Medici ha deciso di mandare una newsletter dell'Associazione dei Medici Stranieri in Italia, che sostiene che gli immigrati si ammalano qua, in realtà ovviamente anche se prendi il Principe di Galles... Sì, ma non è che prendono la scabbia in Italia, eh? No, però lei ti sta dicendo che in quei viaggi... Ma non è del bellata, non è una malattia radica, la scabbia esiste in Italia, cioè comunque... Sì, ho capito. Non è come il vaiolo, lo riportano... Vabbè, comunque, dalla sua esperienza lei dice, non è vero che gli extracomunitari... No, è veramente un'infamia, una cosa... Cioè dire che gli extracomunitari portano malattie tipo scabbia, ebola, è una cosa folle, razzista. No, irrazionale, oltre che razzista, prima che è razzista, è antiscientifica e irrazionale, non ci sono evidenze e nessuno l'ha documentato, non ci sono pandemie, epidemie, neanche in piccolo. Ho capito. Nessuno l'ha documentato mai. Buonasera, allora, siete due facce di merda ovviamente. Povera Zanzara, sempre fedele alla sua... Il Cruciani dice non è una priorità, non è una priorità. Il Cruciani è una capra istituzionale. Ferragosto. Ragazzi, la cosa più incredibile secondo me è Orsoni che patteggia e torna a fare il sindaco. Cioè, un'altra persona in un'altra occasione sarebbe stata massacrata dalla sinistra italiana. Sì, però devi sapere questo, io non sto difendendo Orsoni. L'hai già detto, ha rotto con il Partito Democratico, hai già detto. Ma non c'è, ma quelle sono dettagli. Se il PD decide di sostenerlo in consiglio, perché poi alla fine quello è con i suoi assessori senza di me, allora vorrà dire che anche il PD accetta la versione di Orsoni, no? Che è quella però di dire... Io ho preso qua, patteggiato 4 mesi e quei soldi non li ho presi, li ha presi il partito per pagarmi la campagna elettorale. Questo è quello che dice Orsoni. Se il PD accetta questa versione, accetta quel che lui ha detto ai magistrati. Arriva Parenzo a dire le stronzate. Ecco. Sì, ma vuoi ragionare o no? Sì, ma lascia perdere la tecnicalità, il passaggio, eccetera. La cosa fondamentale. Ma non è la tecnica, è una questione politica, no? Se il PD accetta la versione di Orsoni e quindi non manda quel sindaco e quella città al voto, accetta quel che lui ha detto ai magistrati. Non è detto, può darsi anche che preferisca tenere, come dire, io sto andando dal punto di vista della logica, non da un punto di vista di cosa pensi tu, cosa penso io. È chiaro, sarebbe meglio che questo qui si dimettesse se andasse a casa. Ok. Dopodiché bisogna anche ragionare delle cose che succedono, no? Sì. Allora, questo ha preso 4 mesi? Ha patteggiato 4 mesi per questo? Sì. Ha raccontato alla magistratura la sua versione? Sì. La magistratura ha accettato che lui tornasse a fare il sindaco e lo ha scarcerato? Sì. Sì. Giusto? Sì. Bene. Dunque? Se il PD lo ritiene colpevole, avendolo scaricato fino all'altro non giorno, lo può ritenere colpevole, farà o lo ritiene responsabile, allora, lo ritiene farà che gli fa fare cosa? Una brutta figura. Ma figuriamoci se fa una mozione di sfiducia oppure gli toglie la fiducia. No? Ma non succederà mai. E perché no? Ma non succederà mai. Dicendo che non è un suo sindaco, che non è del PD, potrebbe mandare la città al voto. Abbiamo Rodolfo dalla provincia di Modena. Rodolfo. Pronto? Buonasera Rodolfo. Buonasera a voi signori. Allora, io telefono per dire qualcosa riguardo a quel, come si chiama, Rocco Siffredo. Sì, Siffredi. Siffredi, sì. Che mezz'ora fa ha parlato, sì, in modo un po' troppo libero e sconcio, secondo me. Sì, ha parlato in modo esplicito, diciamo, in modo esplicito. La radio non è un luogo privato, ascoltano i bambini, ascoltano tutti. Ma lo sappiamo, sì. Lo so, ma non è una cosa molto edificante, volevo dire solo questo. Ma caro Rodolfo, guardi, può accadere qualche volta, non succede chiaramente ogni sera, che delle persone parlino in questo consesso, in questa trasmissione, in maniera molto esplicita, molto chiara di alcune cose. Non è che l'abbiamo fatto parlare di quello per raccontarci nei dettagli quello che ci ha raccontato. Aveva fatto ruota libera. Sì, d'accordo, caro Rodolfo, ha fatto un appello pubblico pubblicato sul web, eccetera, eccetera. dicendo che era in astinenza per la nazionale italiana. Da qui no, tu... no, ma è quello che ha detto dopo. Sì, ma ho capito perfettamente, ma noi non siamo qui a, cioè, come dire, l'ha detto, non è che lo potevamo fermare mentre lo diceva. L'ha detto, capito. Punto, siamo andati avanti. Un'altra volta ditegli che di stare un po' più corretto, un po' meno smanghè, come dicono a Modena. Com'è che dicono a Modena smanghè? Meno smanghè, smanghè è uno che parla ruota libera, che fa cose. Comunque lei non smancato. lei non si è, come dire, non se l'è presa più di tanto, mi sembra. No, no? Però ho mandato via i bambini che erano qui, ecco, tutto lì. Vabbè, quei bambini ogni tanto vanno mandati via, come dice Parenzo, vanno messi sopra là, com'è che diciamo una volta, David? Vanno messi sopra la macchina in corsa, cari amici, cioè, sì, legati. Era in casa. Vanno legati, vanno in casa, era in casa, non era in macchina, vanno messi in attimo. Lei li chiuda, non so, li poteva chiudere dentro una stanza, magari poi tornava domani ad aprire la porta, no? Beh, poteva tornare domani. Vado ad aprire adesso. Grazie Rodolfo. Grazie, voi, grazie. Educato però Rodolfo, devo dire, molto. Oh, eravamo rimasti con un collegamento dal Giappone. Lo riprendiamo da Tel Aviv questa molto volta bene, il mitologico bene. Professor Edward Lutwak. Quanto buonasera, gira, buonasera. Buonasera. Professore, professore, shalom. Shalom. Lo dice Parenzo. Ciao. Vabbè, comunque, che vuoi? Grande professore. Che allora, vuoi professor Lutwak, sì, bene, ma non è che sei. Non posso salutarlo. Cioè, mica è ebreo Lutwak. Come no? Cioè, certo. È ebreo. È ebreo. Molto. Ah, certo. È molto, ebreo. Molto ebreo. Ma perché? Molto. Certo, ha fatto la scuola ebraica a Milano, tra l'altro. Ecco, voglio chiedere una cosa. Era in classe, se non ricordo male, caro Edward, con peraltro Moni Ovadia e Renato Mannheimer, se non mi ricordo male. Allora, ma io lamentevolmente, prima di tutto, e tanti anni fa anche la mia Mannheimer, assolutamente sì. Ero in classe, era un bravo bambino. Sì. Mentre lamentevolmente non mi ricordo di Moni Ovadia affatto, ma sicuramente è una persona molto simpatica, non me lo ricordo di Mannheimer, naturalmente. Certo. Senti professore, io però, siccome abbiamo discusso nei giorni scorsi di una cosa con Parenzo, lui se l'è molto presa, ma uno in Italia è una minoranza della minoranza che dice che l'olocausto non esiste, uno qualsiasi a caso, non ti dico nemmeno il nome, uno che sostiene che l'olocausto non esiste e minimi... Lui è in giro per strada o ricoverato in qualche ospedale psichiatrico? Ecco, questo è un altro. Ma vedi che t'ha detto? Aspetta, ma sono d'accordo con lui. Io sono d'accordo con lui. Non voglio sentire più queste persone schifose che sì, negano però, la Shoah. Scusa, non li voglio sentire. Professor... Sono democratico, ma non li voglio sentire. D'accordo, tu non li vuoi sentire. Però io chiedo a Lutto alcuna cosa. Che secondo Lutto ha già risposto in realtà. Vanno ricoverati in una clinica psichiatrica. No, io voglio neanche dire questo. Dico di meno. Quando le persone aprono questo dossier, sì. Allora non è una questione politica, perché anche se loro sono in politica, sì. per esempio adesso credo ci sono due partiti sì. antisemiti nel Parlamento Europeo, sì. Jobbik, quello ungherese sì, Jobbik. E quello è Golden Dawn greco. Sì. Alba Dorata, e come sai, assolutamente non è il caso del Fronte Nazionale in Francia, perché la signora Le Pen ha sistematicamente buttato fuori tutte. Beh, il papà, il papà non è proprio. No, il padre è naturalmente un vecchio Vichy, padre è un fascista, non so cosa tu puoi dire tu come vuoi, ma il partito come tale non è antisemita, nella Repubblica, non è antisemita. Mentre il partito Jobbik. Il partito ungherese Jobbik mette sul suo sito web come prima presentazione non il problema delle scuole o il problema dell'economia, no, la prima cosa che mette è la necessità di investigare i membri del Parlamento Europeo per determinare se hanno sangue ebreo. Ma secondo te vanno messi fuori questi qua? Vanno cacciati? Nazismo puro, mentre in Grecia naturalmente, essendo greci, fanno il nazismo di atteggiamento. Quelli di Jobbik sono nazisti puri, ma con loro, in mia opinione, non si deve entrare in dibattito politico. Cioè, non si deve parlare? No, assolutamente parlare con loro. Ma vanno cacciati dall'Europa? No, con loro si tratta di escluderli dalla stanza. Sì. Se io mi invitano a una conferenza che ci sono 120.000 persone, c'è uno di Jobbik, allora o io o lui. Bravo. Lo sai, professore, che c'è un italiano? Grazie. Ma questo qua è un atteggiamento. atteggiamento sono legittimo. Con lui. Sì, però Luttuak non li vuole in galera questi di Jobbik, non dovrebbero essere accusati, no, di razzismo e andare messi sotto processo. Se uno istiga l'odio, sì. Se uno istiga l'odio, sì. Accusano, si auto mettono gli uniformi e sul loro sito web lo presentano ai loro concittadini come la prima priorità. Mm. Non di, ripeto l'economia, il sì, welfare, ho capito, le scuole, ho capito. L'ospedale, ma quello di identificare membri del Parlamento europeo che magari hanno sangue ebreo. Sangue ebreo, questo è puro nazismo. Sì. E che tu puoi che io no, però non definisco. Ma vanno messi in galera? Patologico. No, in galera, senti, nel loro paese sono parlamentari. Esatto. Ecco, se naturalmente se tu li incontri di notte in mezzo alla strada e poi l'altro non esce dalla strada, io non è che ti comincio a discutere, no? Ma questa ma non sono persone con cui si deve ragione, però, minimamente conversare, scambiare parole. Se io sarei membro del Parlamento europeo, se io sarei membro, io non sarei mai disposto di essere nella loro stanza con loro. Se loro entrano, giusto, li butti fuori. Se non ti puoi buttarli fuori, esci te. Ma completa esclusione però rigorosa. Dovete sapere tutti e due, poi parliamo di bagheria subito, ti dico subito una cosa, che il capo, quello che cura i rapporti con la stampa eccetera degli hobby, che il partito ungherese così dipinto da Luttuak, è un italiano. Cioè, sì, sì, c'è un italiano che è il capo praticamente delle relazioni esterne del partito Jobbik al Parlamento europeo. Al Parlamento europeo. Sì. Vabbè. E lui sarà un nazista, perché ricordi che nella seconda guerra mondiale, sì, mentre persino generali sì, di fascisti erano completamente, rifiutavano assolutamente di partecipare nell'antisemitismo, sì, incluso famosi fascistissimi generali che hanno dovuto fuggire in Spagna, eccetera, hanno rifiutato di mettere bambini sui vagoni. C'era una piccola minoranza in posti come Firenze, non so, ci sono poche persone che erano convinti e che sono entrati nella cosiddetta SS italiana, ecco. Ma erano veramente quattro gatti. Questa è la gloria dell'Italia, che qua, nonostante che era uno stato fascista, quando si è entrati in questa fase di estrema violenza, pochi italiani hanno partecipato. Senta, una cosa, Grillo, hanno deciso oggi, sulla base di una scelta via web, di fare un'alleanza con Farage, un'alleanza tecnica. Ecco, beh, è un'altra persona che ha sistematicamente buttato fuori i razzisti dal suo partito. Tu, Farage, ti può essere simpatico o antipatico, ma negli UKIP non tollerano fascisti o nazisti e così via. Loro sono anti-europei, sono anti-immigranti, ma lui li ha buttati fuori, i quattro antisemiti che c'erano lì. Per cui è coerente questa alleanza o no tra Farage e Grillo? Farage è coerente, Grillo non è coerente. Nessuna alleanza con Grillo può essere coerente, perché Grillo non vuole governare. Grillo è uno che entra nella scena politica, cattura consensi, ma lui non vuole governare. Lui vuole bloccare il Senato, bloccare quello che può, distruggere, bloccare sì, governare no, mentre Farage vuole fare cose. E quindi non so come può fare. Comunque Farage è un partito che ha un programma molto semplice, che è di ridurre la partecipazione inglese nelle unioni europee. Esatto, sì. È di avere una partecipazione tipo mercato comune. Ma comunque è molto lontano da Grillo, molto lontano. Con Grillo non è questione di distanza politica, è che Grillo è uno che va in giro a cercare il consenso, lo ottiene. E lo mette in una scatola e butta la scatola a mare, perché lui non vuole governare. Una volta l'hai definito un pazzo. Una volta l'hai definito un pazzo. Dove sono le leggi che lui propone? Dove sono le proposte? Cosa sono i programmi? Sì. Niente. Ma una volta l'hai definito un pazzo? Continua a definirlo un pazzo? No, i suoi comportamenti, sai, le sue espressioni, il fatto che urla e non, lui non parla, non presenta analisi, ma urla. Sembra pazzo. Questo io diciamo che è un insulto generico che non avrei dovuto usare. Dico che è una cosa molto peggio che un pazzo. Cioè? È una persona che entra nella scena politica, prende il peggio consenso, di un pazzo, e invece di utilizzare il consenso per metterlo insieme con altri consensi, via, per risolvere i gravissimi problemi di oggi, va bene, come per esempio per me l'uscita dell'euro è la cosa che potrebbe salvare l'Italia, bene, ma invece di mettere queste cose come programma politico, discutiamolo e facciamolo. Grillo fa solo scene teatrali e lui non propone niente, e quando qualcuno nel suo movimento vuole unirsi nella maniera democratica con altre persone, per esempio del PD, per poter fare cose, lui li vuole cacciare via. Quindi è il populista puro, quello che si fa eleggere o fa eleggere i suoi, ma poi ha il panico e non vuole governare. Non vuole. Però scusi, professore, tu hai appoggiato un grillino a Bagheria. No, è assolutamente un grillino. Bisogna differenziare. Come non è un grillino? No, perché il Movimento 5 Stelle in varie località dell'Italia è servito come un brand, come un'etichetta. Ma questo è di Grillo, è del Movimento 5 Stelle. Giovani, no. Giovani locali, gente locale, magari non tanto giovane, ma che ha utilizzato il brand, fare cose, ho capito, che vogliono governare, vogliono mettere Bagheria a posto. Sì. La Bagheria che è stata molto importante nella storia della mia famiglia, la Bagheria che conosco da quando per cui avevo questo qua che anni, è stato eletto non è grillino, dici tu? No, questi sono gente che sono entrati in politica per ripulire la città di Bagheria fisicamente, di renderla una bella città, Però c'è... perché era Bagheria era il luogo dove i principi siciliani hanno scelto. Ho capito, ma questi hanno il Movimento 5 Stelle. Ma lui ti dice loro non si riconoscono minimamente in queste triste figure come Casaleggio e Grillo, triste antiquate figure, ma loro avevano bisogno di entrare in politica. Ho capito, ho capito. No, e PD era già, c'era già un gruppo di persone PD che avevano, erano proprietari del PD, ha ragione, poi professore, proprietari del PDL e proprietari, eccetera. Allora loro hanno dovuto entrare, sono entrati con questa etichetta. Ok, benissimo, perfetto. Non è che vanno in giro a parlare delle cretinate che sento da Casaleggio, certo, e così via. No, per carità. Un'ultima cosa, un consiglio a professore, professore, però, aspetta, un'ultima cosa, no, ma lascia perdere Tel Aviv, adesso dobbiamo chiudere. Bellissimo, volevo dargli un consiglio, devo andare a cena a Tel Aviv io. Ma non gli dare nessun consiglio. Una cosa, professore, ma lo sarei. Vai sulla spiaggia. Esatto, bravo. Al Rehov Frischmann. Prenditi due pillole contro la pressione sanguigna. Perché? Perché quando vedi l'effetto di avere immigrazione russa e immigrazione etiopica, e quando le russi si sposano con gli etiopici, vedi queste ragazze sulla spiaggia. Bellissime, c'è da svenire. Professore, se intende. Le donne bellissime, professore, bellissime. Io sono un albergo a Cadia, nel Sria, di fronte alla spiaggia. È stupendo. E quando vado quello la mattina a nuotare qui, perché prima di lavorare si va, si comincia presto, ma si può andare a nuotare alle 8 di mattina perché l'acqua è calda. Quando guardo in giro, c'è queste donne pazzesche. A presto, vai al professore. Mantarei, ristorante Mantarei. Ma che c'è, qui stiamo a Milano, tu a Roma. Rehov Frischmann, Mantarei. Ciao, prof. Ciao, grande professore. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Vi voglio benissimo, viva la topa. Radio 24. La passione si sente.